si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, 18 e 7 minuti, ben ritrovati in macchina verso i luoghi di vacanza, speriamo per voi sì, oppure anche semplicemente in macchina di ritorno dal lavoro o a casa tranquillamente a godersi la serata di venerdì. 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera insieme a Giorgio De Luca, Riccardo Buccero in redazione, Pietro La Corte in regia, Alessio Maurizio in studio, di ritorno da Varese direttamente dagli anni 30 grazie alla macchina del tempo, Carlo Gabardini. Buonasera a tutti. Che però grazie. Diciamolo, eri lì a lì a girare un film, un film di Giulio Base tratto da un romanzo di Piero Chiara, quindi un film diciamo che si svolge durante il fascismo. Ma oggi sono molto molto emozionato perché diciamo è sicuramente il giorno della sentenza Berlusconi, ma per me essendo venerdì è anche un po' il giorno della sentenza Gabardini, direi, perché entro la fine della puntata sicuramente Alessio Maurizi si dovrà esprimere dare se un il giudizio. Mio stage è certo, se il perché mio stage prosegue anche settimana prossima. Gabardini o no. Ci siamo conosciuti quest'estate, abbiamo deciso che avrebbe fatto uno stage da opinionista o comunque da conduttore radiofonico a Radio 24. Come sta andando? Ascoltatori, ditecelo anche voi. Esatto, ditecelo voi. 24. Oggi ho anche ci un microfono più bello degli altri giorni. Quindi. Oddio, stavi per cadere, stavi andando sotto il tavolo. C'è qualcosa l'emozione. Su Twitter? Su Twitter ti leggo questo che secondo me risponde a tutte le domande. Su Twitter 140.000 tweet e oltre 30.000 commenti su Facebook solamente con l'hashtag sentenza Mediaset. Se vuoi te li leggo tutti e 140.000, così direi che il mio stage va avanti fino al 2015. Fino al 2015. 349-238-6666 per i vostri SMS. Siamo anche su Facebook, si può fare trattino Radio 24. Su Twitter si può fare 24. Cominciamo con i titoli di Sky TG24. Mediaset e il PM firma l'esecuzione della pena con sospensione per Berlusconi, il Cavaliere tra poco incontra i suoi parlamentari. Letta vuole governare, il paese ha diritto a una guida, lo stop al governo sarebbe un delitto, non mi lascio logorare, ha detto il Premier. Frecciate dal PD, il centrodestra vuole farsi guidare da un evasore, il Movimento 5 Stelle chiede la decadenza di Berlusconi. Ministro Kyenge dice no all'invito della festa della Lega, Maroni replica, ha capito che le sue idee sono sbagliate, il confronto è utile. Weekend di Affa in Italia, bollino rosso in 7 città con punte di 40 gradi tra domenica e lunedì, caldo torrido fino a mercoledì. Calcio scommesse, Mauri squalificato 6 mesi per omessa denuncia, è un'ingiustizia, dice, per la Lazio 40.000 euro di ammenda. Stilosi come ieri. La sentenza di oggi mi conferma nell'opinione che una parte della magistratura nel nostro paese sia diventata un soggetto irresponsabile, una variabile incontrollabile ed incontrollata che è assurta da ordine dello Stato, cioè con magistrati non eletti dal popolo ma selezionati semplicemente attraverso un concorso come tutti i funzionari pubblici, è assurda a un vero e proprio potere dello Stato. Rimetteremo in campo Forza Italia e chiederemo agli italiani di darci quella maggioranza che è indispensabile per modernizzare il Paese, per fare le riforme, a partire dalla più indispensabile di tutte le riforme, che è la riforma della giustizia, per non essere più un paese sottoposto ad un esercizio assolutamente arbitrario del più terribile dei poteri, quello di privare un cittadino della sua libertà. Oggi è domani. Gavardini, hai capito perché abbiamo scelto Come Ieri come musica? Perché insomma torneremo a Forza Italia, una parte della magistratura ce l'ha con me, la persecuzione, cioè una parte degli italiani che dicono di sì, una parte che dicono di no. Diciamo che una parte di queste cose le ho già sentite. Sembra di essere rimasti un po'. Tutto sommato non è cambiato moltissimo, a parte questa condanna che oggettivamente c'è. Come ieri. A proposito di ieri, siamo andati a ripescare, grazie a Giorgio De Luca e Riccardo Buccero, delle dichiarazioni di Berlusconi interessanti su questa questione qua di alcuni anni fa. Credo che fosse da Santoro. Diceva, qualora, tra l'altro proprio sul reato di evasione fiscale, un politico che dovesse essere preso con le mani nel sacco con una condanna definitiva dovrebbe dimettersi. Viene colto con le mani nel sacco ad evadere il fisco, poi si dimette da politico. Questo è d'accordo. Uno che viene colto con le mani nel sacco e che subisce una condanna definitiva in cui si dimostra che lui è stato evasore del fisco, io credo che abbia il buon gusto di mettersi da parte. Vabbè, si dicono tante cose. Questa è una notizia. Sì, ma era il 95, adesso sono passati parecchi anni. Cioè, voglio dire, è cambiato tutto, tu dici. Anche il fisco è un po' cambiato. È cambiato anche il fisco nel frattempo. Non c'era l'IMU. Adesso un'altra dichiarazione, sempre di Berlusconi, del 2004, quando invece di tutt'altro tenore erano passati un po' di anni, e diceva, che cosa, sentiamolo, sul fatto di evadere, il diritto di evadere il fisco. Questa è una vecchia questione, sappiamo che, l'ha detto più volte, che c'è una sorta di diritto naturale a non pagare le tasse oltre una certa soglia. Sentiamo Berlusconi. 2004. Io lavoro, faccio tanti sacrifici, lo Stato poi mi chiede il 33% di quel che ho guadagnato. Sento che è una richiesta corretta, in cambio dei servizi che lo Stato mi dà. Se lo Stato mi chiede il 50 e passa per cento, sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato ad evadere per quanto posso questa richiesta dello Stato. Oh, allora, come ieri, sentiamo Epifani, che ieri è stato uno tra i primi a uscirsene con una dichiarazione che alcuni hanno giudicato quasi incomprensibile, sembrava quasi la lettura di un'altra sentenza, no? Cioè la presa di posizione, il difficile equilibrio tra le varie anime del PD arriva a questo compromesso. Sentiamo Epifani. La condanna di Silvio Berlusconi è ovviamente un atto di grande rilevanza e nel nostro ordinamento la condanna penale richiama una responsabilità individuale. Per quanto ci riguarda, questa sentenza non solo va, come naturale, rispettata, ma andrà eseguita e resa applicabile. E nel caso in cui ci fosse bisogno, a questo si uniformeranno i nostri gruppi parlamentari. Ma che dichiarazione politica, eh? Sembrava una lettura di una sentenza. Tra l'altro c'aveva a fianco due esponenti del PD, sembravano i giudici all'atere, anche loro. Vabbè. Ti leggo un tweet di MGMGIE che dice: mi chiedevo, ma oggi pomeriggio Mentana che fa? Niente speciale? Esatto. Controlliamo. Salutiamo intanto Giancarlo Galan, deputato del Popolo delle Libertà. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Galan, resti con noi, dobbiamo fare il traffico perché è giunta l'ora. E poi con lei naturalmente commentiamo questo momento. Tra l'altro so che c'è una riunione già stata convocata a Palazzo Grazioli. Sì. Lei è lì? Io sono non lì, ma nei paraggi, nei paraggi. Va bene, magari riuscirà a darci qualche notizia di prima mano. Intanto c'è Beppe Grillo che dice: nessuno si azzardi a modificare la giustizia insieme al partito capeggiato da un delinquente. Good news, traffico, torniamo. And now the good news. Palermo. Dopo decenni di abbandono, il Parco dell'Uditore è stato restituito alla città. Merito di un gruppo di cittadini che ha raccolto più di 5.000 firme e presentato una proposta di iniziativa popolare che ha fatto cambiare il piano regolatore generale. Da area destinata alla cementificazione a parco urbano. L'unione fa la forza, o almeno fa il parco. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, più avanti con i vostri interventi. Intanto insieme a Giancarlo Galan, l'abbiamo già salutato, deputato del Popolo delle Libertà, nei paraggi di Palazzo Grazioli, dove si terrà probabilmente una riunione, non so se è già iniziata, con i parlamentari del Popolo delle Libertà e Silvio Berlusconi. Lei l'ha visto, l'ha sentito il vostro leader in queste ore, Galan? dopo la condanna? No, dopo la sentenza volutamente non l'ho sentito, perché ho pensato che fosse meglio, che forse avrebbe preferito. Io al suo posto avrei preferito mettermi a pensare un momento. Vedo che lo ha fatto, vedo che lo ha fatto molto bene, e quindi qualche volta anche il silenzio conviene a tutti. Perché dunque la prima reazione di ieri sera è sembrata, noi abbiamo usato la canzone come ieri, diciamo nel solco di cose già sentite, già dette, però dopo una condanna così forte ci si poteva aspettare anche un Berlusconi che rovesciava subito il tavolo, secondo il suo stile. Invece forse la prima reazione possiamo definirla attendista? No, secondo me no. Io così mi picco di conoscerlo, visto che sono con lui da 28 anni, quindi qualcosa l'ho conosciuto. Ecco, se io avessi parlato ieri sarei stato avvilito, in preda allo scoramento più forte, psicologicamente abbattuto, incapace di reagire. Oggi è tutto diverso. Oggi, dopo averlo sentito, non mi è parso attendista, mi è parso quello che vuole combattere di nuovo. Ecco, ieri mi domandavano in tanti, ma adesso cosa farà? Che succederà, certo. Andrà, che succederà? E io dicevo, ma non ero sicurissimo, no, si torna a combattere. E invece adesso ne sono sicurissimo e devo dire che anche l'umore volge al meglio. Si torna a combattere? Perché questa espressione? Ma così è un modo di dire. Politicamente parlando, insomma, sì. Certo, si combatte per delle idee, ecco, mi pare evidente, l'ho sempre fatto tutta la vita, però è un termine che dà al tempo stesso anche il senso di una passione che si deve mettere, di un'idea, di una passione, del volersi. Ma l'obiettivo di questo combattimento a questo punto, Galan, quale dovrebbe essere? Perché la sentenza ormai non si può eliminare in nessun modo, a meno che, non lo so, potrebbe intervenire Napolitano con una grazia. Auspicate questo? Non lo so, i miei studi di giurisprudenza sono troppo lontani perché possa dare una risposta seria, quindi non mi avventuro in vie pericolose. Ma che cosa si può fare? Sì, io vi dico quello che farei io, quello che farò io. Andrò in giro a chiedere agli italiani il 51%. Vabbè, questo è stato detto tante volte anche da Berlusconi, datemi il 51%. Detto, però Galan, non avete avuto, anzi forse questa potrebbe essere la sconfitta anche più pesante di questa condanna per Berlusconi, la maggioranza, già per esempio per la riforma della giustizia, sentire dire non bisogna abbiamo. Fare la riforma della giustizia dopo tutti questi anni, francamente viene a dire ormai... Vede, noi non l'abbiamo avuta la maggioranza assoluta, l'abbiamo avuta con gli alleati, ma vada a chiedere un po', guardi un po' che cosa ha fatto Fini, se ce l'ha lasciata fare la riforma, guardi se gli alleati ci hanno lasciato fare quello che era il nostro programma, neppure l'abolizione delle province ci è stato concesso di fare. Ecco, no, ci vuole il 51% e allora sì, si risponde fino in fondo agli italiani. Io credo che gli italiani abbiano capito e abbiano anche voglia di darcelo. Però alle scorse elezioni vi hanno dato meno di quello che vi hanno dato prima, perché c'era stato comunque una forte flessione, quindi arrivare al 51%, tra l'altro con questo cambia, sistema elettorale... Tutto cambia, dopo si gioca, si fa la battaglia, si gioca la partita... Comunque vi sentite in campagna elettorale... Vediamo come va a finire. Galan... Io ieri all'avvilimento, ieri è subentrato una gran voglia... di mettersi a fare qualcosa politicamente, quindi sì? Le elezioni sono la massima espressione per chi ama. Ma questo delle elezioni è il suo pensiero o è quello anche di Berlusconi e dell'entourage? È assolutamente il mio pensiero, perché è il momento più eclatante, quindi penso a quello più eclatante, no? Qual è il momento decisivo della vita di un politico, il momento più bello, più difficile, più carico di tensione, di ansia, di emozioni. Però si era detto che il governo non avrebbe avuto ripercussioni, almeno non da parte del PDL. Adesso lei mi dice si va alle elezioni. Ma prima o poi si voterà pure in questo paese. Almeno una volta. Certo, prima o poi si voterà. Prima o poi sì. E quindi prima o poi ci batteremo, faremo le elezioni, andremo a chiedere agli italiani, avete capito, allora adesso consentiteci di realizzare il programma. Vi presentiamo queste facce, questi uomini, queste storie. E dopo gli italiani votano, la democrazia è bella per questo. Votano, sentiamo chi crede che quella sentenza sia giusta, per esempio. Ecco, a proposito della sentenza, c'è stata persecuzione nei confronti di Berlusconi in questi anni? Oppure un capo di Stato di una grande azienda, capo dell'opposizione, per 20 anni, a un certo punto, facendogli le pulci, prima o poi qualcosa hanno trovato. Però queste sono anche le regole della democrazia, no, Galan? Ma guarda, per carità, io non ho mai commentato una sentenza, non la voglio commentare neanche questa, non è questo che però sostenere che non c'è stata persecuzione nei confronti di Silvio Berlusconi, beh, per davvero ci vuole un bel coraggio per fare un'affermazione. Ma ammettiamo, no, perché la mia domanda era duplice, ma ammettiamo che ci sia stata persecuzione, però non è ammesso che ci sia accanimento, per esempio, da parte, non so, della magistratura per ricercare, di fronte a un uomo che ha tanto potere, se ci sono stati dei comportamenti scorretti, come diceva Berlusconi nel 95, un politico, per esempio, che commette reato di evasione fiscale, con sentenza definitiva, diceva lui, dovrebbe farsi da parte. In altri paesi per molto meno ci si dimette, no? Con sentenze, anche meno, sì, delle sentenze definitive. In altri paesi dubito che ci sarebbe stata una vicenda giudiziaria come questa a carico del leader di un popolo di 10 milioni di cittadini italiani. Dubito che ci sarebbero state tutto quello che noi chiamiamo, io chiamo accanimento, e che ci sarebbe stata quella persecuzione che in Italia c'è stata. Gli altri paesi sono un po' diversi e quindi tutte le regole e i comportamenti sono diversi. Comunque quel giochino di andare a vedere che cosa dicono i politici 10 anni è sempre divertente. È bello, però ne andrebbe fatto un altro, ne andrebbe fatto spazio e andare a vedere cosa dicevano i giornalisti. Ma sì, no, ma è chiaro, io l'ho anche detto, sono passati tanti anni. Garanti, bellissime, è per davvero una bella attività. Adesso che abbiamo internet andrebbe fatta un po' più spesso, se non altro ci si divertirebbe, forse si sdrammatizzerebbe anche molte delle tensioni che ci sono, forse. Senta, ma adesso lei va a questa riunione a Palazzo Grazioli? No, io ho dovuto tornare questa mattina e quindi sto viaggiando. Adesso mi sono fermato perché non ci fossero troppi disturbi sulla linea, ma temo che arriverò troppo tardi. Comunque è ipotizzabile, ma non, sì. No, dico, è ipotizzabile che ci sia comunque una leadership di Berlusconi, per esempio, come è stato detto, dovesse stare agli arresti domiciliari, addirittura lui, qualcuno dice, vuole andare in carcere, cioè Berlusconi che guida il partito dal carcere. Io spero che questo non avvenga, non so come, io questa speranza voglio ancora tenermela. Se dovesse succedere è ipotizzabile e spero di poterlo ipotizzare e spero che avvenga nella malaugurata ipotesi che non sia completamente libero di rivolgersi agli italiani. A candidarsi, questo già sappiamo che non potrà farlo, perché non c'è solo l'interdizione, ma c'è la legge anticorruzione, tra l'altro votata dal PDL pure, del 2012. Non è necessario che sieda in Parlamento, no? Sarà più difficile, per carità, ma io voglio vedere gli italiani come la pensano per davvero. Cioè, voi scommettete sul fatto che di fronte a questa situazione si crei un consenso ancora maggiore, perché bisogna andare oltre quello che è stato il consenso a queste elezioni, che non è bastato. Tra l'altro, con questa legge elettorale, per avere il 51 ce ne vogliono di voti. Non occorre il 51, ce ne mancavano 140.000 soltanto l'ultima volta, nelle condizioni in cui eravamo, e avremmo avuto la maggioranza assoluta della Camera dei Deputati. Dopo il meccanismo è complicato, ma questo c'è il Senato, c'è il Senato, il problema che ha avuto dopo. Adesso vediamo che cosa succede e io spero, credo che gli italiani abbiano capito, sono convinto che le cose sarebbero molto diverse, e almeno a giudicare dalle decine di telefonate, messaggi che ho ricevuto in questa giornata, tutti carichi di voglia di fare, di voglia di tornare a fare politica, ecco, non credo che le mie speranze siano campate in aria, credo che abbiano una solida base d'appoggio. Va bene, grazie, buona serata, Galan, in viaggio. Vi saluto. A presto, presto. Grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24. Gabardini, adesso puoi aprir bocca. Ah. Oh, finalmente. Perché mi mettono anche dello scotch sulla bocca proprio quando chiamano gli ospiti. Durante l'intervista. Io, come regola d'ingaggio, ho non, che non posso parlare con gli ospiti. Adesso puoi dire tutto quello che vuoi. Adesso non mi viene niente. Prima ovviamente ne avevo tantissime. Allo scotch ho detto un sacco di cose incredibili, bellissime e molto molto radiofoniche. Allora, adesso abbiamo la borsa, facciamo good news, pausa per le informazioni dai mercati finanziari, poi iniziamo a sentire i vostri interventi. 824 0024. And now the good news. Francesco Cucari di Rotella, provincia di Matera, all'età di 19 anni ha ideato il dizionario dei rifiuti. La prima app che semplifica la raccolta differenziata. Basta scrivere il nome del materiale da riciclare e l'app ti indica in quale contenitore gettarlo. Oggi il suo sistema è stato adottato da numerosi comuni e province in tutta Italia. Stay angry, stay rubbish. Si può fare l'attualità anche d'estate. Stilosi come ieri. C'è anche da risentirsi il momento nel quale davanti a Palazzo Grazioli l'esercito di Silvio stava ascoltando la sentenza e hanno capito male, e pensavano che fosse stata cancellata la sentenza. A dire la verità c'è stato un po' di confusione inizialmente per tutti e allora l'esultazione, ma poi l'esultanza, scusate, ma poi dopo la depressione. Sentiamo. Come? Annulla la sentenza! Sbagliato. Allora riassumiamo, subito dopo la sentenza il PD ha detto la sentenza va eseguita in quel modo che ha detto Epifani, che sembrava la lettura a sua volta di un'altra sentenza. Gli unici che sono intervenuti, poi Napolitano ha detto sì, adesso si può riformare la giustizia, quindi Berlusconi nel suo comunicato ha detto bisogna tornare a Forza Italia e a riformare la giustizia col PD presumibilmente. Grillo oggi ha detto no, nessuno si azzardi a modificare la giustizia con uno condannato in via definitiva. Crimi del 5 Stelle, questa dichiarazione di ieri. Berlusconi adesso è un pregiudicato condannato, è una cosa ormai, è un dato di fatto e nessuno può contestarlo. Il fatto che sieda in Parlamento è una cosa che riteniamo vergognosa, è una cosa che personalmente mi rende difficile pensare di poter sedere negli scranni del Parlamento con l'idea che ci possa essere un condannato. E poi c'è stata anche questa cosa che tutti hanno sottovalutato, tutti guardavano all'interdizione, la pena accessoria di questa sentenza della Cassazione, invece c'è una legge del 2012 votata dal governo Monti e anche dal PDL che in caso di condanne come questa che ha avuto Berlusconi definitiva già scatta l'ineleggibilità, che è diversa dall'interdizione. Però lui non può essere eletto, motivo per cui insomma al Senato già si dovrà votare, prima ancora che scatti l'interdizione al Tribunale di Milano, già si dovrà votare questa nuova condizione di incandidabilità, quindi di non poter stare in Parlamento. E da questo punto di vista ha ragione Crimi. Poi vedremo il voto. Tra l'altro nessuno prima l'aveva tanto sbandierata questa cosa. No, non l'aveva. Nel senso che sembrava. Tutti pensavano all'interdizione. Esatto. Invece c'era già una legge votata dal PDL, tra l'altro, di un anno fa. Questa è la curiosità. Ascoltatori, all'800 24 0024 cominciamo con Massimo che ci chiama da Savona. Buonasera. Salve. Buonasera. Prego. Ecco, io penso che l'unico che deve stappare una bottiglia è Berlusconi, che l'hanno riesumato con questa storia, e se dovessimo andare ad elezioni le vincerà. Credo questo. Cioè, lei è del teorema di Galan che dice andiamo a elezioni, sì, abbastanza rapidamente, e vedrete che questa condanna è un autogol. Questo è un autogol, secondo me, manco avesse pagato per farsi farsi colpevole. Beh, non lo so, però cioè, sicuramente sembra studiata a tavolino, e io sì, penso che sia un appunto un autogol, ma non... Cioè, lei crede che questa condanna può mandare a votare per Berlusconi quella gente che pochi mesi fa non l'ha votato Berlusconi, sì, perché comunque rispetto alle elezioni ancora precedenti aveva quasi dimezzato i voti, sì, poi sì, lui è un maestro nel vittimismo, li ricompatta e prenderebbe un sacco di voti. Ma lei è tra quelli che lo voterebbero? Fra una settimana vince le elezioni. Massimo, scusi se glielo chiedo, ma lei è tra quelli che lo voterebbero oppure questo discorso lo fa da osservatore? No, figuriamoci, non lo voterei assolutamente, però purtroppo... Però studiata a tavolino, detta così, è come se quindi se la fosse cercata Berlusconi stesso, mi sembra un po' troppo. Non lo so, ma è, va bene il complottismo, però pensare che addirittura lui l'abbia cercata, per poi... Per a parte che non può neanche candidarsi, quindi no, a questo punto... No, ma non punto... penso che sia così diabolico, però infatti, secondo me è una cosa... Cioè, vabbè, e anche chiamarla autogol non è tanto giusto, perché autogol presuppone che siano due squadre, come se la magistratura fosse una squadra. L'ho detto io, no, l'ha detto lui, ecco, io chiedo scusa. Ho sintetizzato usando questa espressione, ma che era tutta dentro il suo discorso. Grazie Massimo, grazie, buona serata. Grazie. Gennaro da Latina, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, senta, io volevo dire alcune cose, spero di non... intrappolarmi molto, perché quando si pensano troppe cose magari non si riesce a dire la cosa giusta. La prima cosa, mi auguro tanto che il mio conterraneo, il nostro presidente, non faccia cose che non debba, che non avremmo piacere, perché noi siamo tutti cittadini italiani. Sia meno criptico, però il suo presidente è Napolitano? Esatto. Ah. Che faccia, cos'è che non dovrebbe fare? Ma qualcuno dice la grazia, questo e quest'altro. Non stiamo parlando di una persona che si è trovata in disgrazia, stiamo parlando di una persona che con lucidità ha fatto quello che ha fatto. Vabbè, non è che la grazia si dà solo a chi è caduto in disgrazia, questo è un gioco di parole, però. Qui non si tratta di disgrazia. Noi dobbiamo dare atto a Berlusconi che ha dato lavoro a tante persone, però gli dobbiamo anche notare che praticamente lui si è messo con compagnie sbagliate, tipo napoletani e tipo siciliani. A buon intenditor, poche parole. Un'altra cosa che vorrei dire è questa: il signor Galan dice che praticamente lui crede che ha avuto tante telefonate, ma io lo credo che ha avuto tante telefonate, c'è la gente che purtroppo non ricorda. Io invece ricordo sempre, praticamente ormai sono anni, che il signor Berlusconi si è fatto le leggi per fatti suoi, quando ha fatto, cioè lui vuole il 51% per fare il popolo della libertà, cioè fare tutto quello che crede che a lui fa piacere. E come si dice a Napoli, il prete dice fai quello che dico io, ma non fa quello che faccio io. Ecco. Vabbè, Gennaro. Questo è quello che vorrei dire. Anche l'altra parte ha sbagliato, perché io tutto mi aspettavo, non qualcosa, una dichiarazione così forte di Epifani, perché... Ma che forte, non si è capito nulla, una dichiarazione, guardi, magari una dichiarazione forte di Epifani sarebbe un sollievo per tutti i cronisti, finalmente. Con il dubbio, perché ha lasciato il dubbio in tutti. Più che altro non si è capito cosa voleva dire. Lui ha detto le sentenze vanno eseguite e applicate, e questo è una cosa che va da sé. Tutti. Bravo. E quindi non si capiva qual era la presa di posizione. Tutti i gruppi parlamentari seguiranno. Tanto per dirle, io ne sto aspettando una dal 2003. Di cosa? Di sentenze? Di sentenze. Adesso dovrebbe arrivare il 2014, ma siccome la Tina è talmente imbrigliata, chissà quando andremo a finire. Auguri Gennaro, in bocca al lupo. Grazie per essere stato con noi. Andrea da Roma, buonasera. Eccoti. Buongiorno. Allora, io ero commosso mentre sentivo parlare Galan, perché è vero, la sentenza sulla fine di Gabardini mobilita le coscienze civili di questo paese. Non ho capito nulla, ho capito solo che lei ha detto Gabardini a un certo punto. Sì, sì, è la sentenza sulla fine dello stage di Gabardini di cui stiamo parlando. Perfetto. Galan parlava di quella, sì. Io sono favorevole, e il presidente Napolitano ha fatto un richiamo di rara pertinenza. perché veramente questo fatto ci riporta alla giustizia, anche perché finalmente ci misuriamo con quel bravo collega che è Parenzo e mi sembra ha battuto 4-0 tutta la vita. E chi è che deve rimanere chiuso ai domiciliari? Guarda, io non ho capito quasi nulla di quello. Ma sto gongolando tantissimo. Ho capito che ha detto che Gabardini ha battuto Parenzo 4-0 nella sentenza del sì, io direi che lo stage è finito, che se per favore vi chiudete dentro anche voi agli arresti domiciliari, ci evitate che ritorni Parenzo, che tutta una serie di metafore per dire questo. Va bene, esatto. Andrea, ti ringrazio moltissimo. Comunque io gioco su un altro campionato con Parenzo, nel senso che loro sono veri professionisti, io sono uno stagista, quindi non è che prendo il posto dei campioni come Cruciani e Parenzo, vorrei tranquillizzare tutti. Beh, però ti ringrazio moltissimo. Si chiama quell'altro della Coppa dei Campioni, Andrea, non ricordo. Sì, però adesso usciamo un attimo da questa situazione imbarazzante, Andrea. Però è bello che Radio 24 parli della sentenza Gabardini, sono molto emozionato. Finirà sicuramente oggi il mio stage. Facciamo un'agenzia. Lei ha chiamato solo per questo, c'era anche dell'altro. Sì, poi ho sentito anche che si parlava di tutte le telefonate che si ricevono sull'argomento, come voi, che infatti state ricevendo tutte le telefonate per parlare appunto di Gabardini. Quindi di questo parlavamo, giusto? Non ce la faccio, Andrea, non ce la faccio a portarla da un'altra parte. Che faccio? La saluto? Grazie ciao, mille. Era solo per questo. È ovviamente mio cugino, chiedo scusa a tutti, immagino. Andrea Gabardini, quindi. Carlo da Como, buonasera. No, è caduto, è andato giù, non ce l'abbiamo? Ah, perché adesso togli tutti quelli che hanno un'assonanza con il mio nome, quindi o che si chiamano Carlo, che si chiamano Gabardini, non li chiami. Adesso che ti sei comportato così, attento perché oggi finisce lo stage, davvero, se no... Scherziamo naturalmente, no, ma lo stage è vero, cioè Gabardini, attore, autore, comico, cioè sta qua con noi per portarci un punto di vista un po' diverso su quello che si discute la sera con gli ascoltatori e poi vedremo, insomma, volevo vedere se c'è qualche notizia, qualche reazione a quello che ha detto Grillo e altre cose, niente. Abbiamo Antonino in linea, buonasera. Buonasera, chiamo dall'Abruzzo. Prego. Senta, io sono un piccolo imprenditore. Dopo la sentenza di ieri sera mi devo così ravvedere un po', perché in questo paese c'è tanta gente, colleghi suoi, che fanno dei titoli sui giornali spaventosi, dei titoli da far rabbrividire, godere per una sentenza. Come se Berlusconi fosse l'unico male di questo paese. Scusi, però andiamo per ordine. Io ritengo sì, che ammazzare un politico. Però scusi, prima di arrivare, scusi un attimo, Antonino. Modo, scusi un attimo, Antonino. Prima di andare alla conclusione, mi dice quali sono i titoli che lei ha trovato sbagliati? Perché basti che lei guardi l'Unità che ha scritto condannato. Allora, l'Unità ha scritto condannato. Però è un dato di fatto, fin qua non è che c'era, non mi pare che ci fosse compiacimento. Sì. Il Fatto Quotidiano, preso il Caimano, arrestato il Caimano, finalmente giustizia è fatta. Ma allora quest'uomo è stato condannato da chi? Si aspettava però guardi che questi titoli non mi pare che valgano la sua premessa, sono titoli così, il Caimano lo usa anche il giornale Libero, è un modo mai per chiamare Berlusconi. Ma ascoltatemi, anche dalle vostre parole c'è goduria, Sky fino a questa mattina, senza tener conto che la loro proprietà è stata sputtanata in tutto il mondo, godevano, ieri sera, stanotte, godevano. Non è questo il modo di fare politica in questo paese. Ma lo dice lei che c'è gente che gode. Sky non fa politica, però. Scusi, le posso dire una l'ultima cosa? Sì. Se qualcuno nella società Mediaset decidesse di trasportare tutto il lavoro all'estero, io ne sono felice. Però avremo solamente dei programmi in turco e in inglese e in cinese, sarebbe anche abbastanza noiosa la televisione. Portare tutta non proprio me Mediaset è difficile che vada all'estero. Deve ricordarsi di quello che è successo alla Procura di Milano, quando andò Cesare Romiti da Di Pietro, gli chiese scusa e prese il caffè e andò via. Lì si parlava di corruzione. Ma la valigia dei soldi del PCI di Greganti, che fine ha fatto? Il discorso del Monte Paschi di Siena va tutto a rilento. Cioè non bastano queste cose per dire che ce l'hanno con Berlusconi? Grazie Antonino, scusa, ci fermiamo qua, facciamo la good news, grazie intanto, poi il traffico e poi rientriamo. Ci ha raggiunto già Simone Furlan, fondatore dell'esercito di Silvio, uno di quelli che ieri, possiamo dirlo, avete fatto un po' una figuraccia davanti a Palazzo Grazioli perché avete esultato e non avete capito la sentenza. Però guardi, buonasera a tutti intanto. Io non sono di questo parere, sa perché? Perché sì, i ragazzi sono stati tratti in inganno da un annuncio di Sky TG24 che aveva detto assoluzione, poi tra l'altro Sky TG infatti ha detto che chiedeva scusa. Infatti. Ma quella è la passione e l'amore dei ragazzi che erano lì da 8 ore, appena hanno sentito la parola sotto il sole tra l'altro, per cui non ne potevate più. Traffico, torniamo tra un attimo. And now, the good news! Nel cuore dell'area C di Milano, dove vigono le limitazioni al traffico privato, lo studio legale L'Excellent ha deciso di regalare una bicicletta a tutti i dipendenti e i collaboratori per facilitare la loro mobilità in centro. Avete voluto la bicicletta? Adesso pedalate! Si può fare l'attualità anche d'estate. Simone Furlan, fondatore dell'esercito di Silvio. Dunque, sarà stata anche colpa di Sky TG24 che ha dato inizialmente un titolo interpretabile. Però forse voi eravate stati convinti dall'ottimismo che c'era nelle ultime ore. Anche Berlusconi aveva detto, tutti gli esponenti del Popolo delle Libertà, che volevano essere ottimisti. Quindi siete andati su questo abbrivio, poi dopo la delusione, no? Guardi, io devo dirle che ero l'unico che continuava a dire aspettate. Avevo con me un avvocato penalista e continuavo a dire leggiti la sentenza e prima di fare dichiarazioni voglio che tu me la spieghi. Però certamente ce l'avamo illusi tutti, eravamo convinti che non potesse accadere quello che è accaduto, perché conosciamo il presidente Berlusconi, ma soprattutto perché non c'era uno stralcio di una prova. E quindi riteniamo sia stata scritta una pagina veramente molto triste della nostra democrazia. Però sapremo reagire. Come? Innanzitutto l'esercito di Silvio ha già indetto e organizzato con la questura, abbiamo chiesto gli spazi e tutto, da lunedì alle 14 saremo in presidio davanti al Quirinale per far partire una petizione di raccolta firme che contemporaneamente partirà in tutta Italia con i nostri 500 reggimenti per chiedere la grazia al presidente Napolitano. Riteniamo che ora Napolitano debba davvero attuare quella pacificazione che ha chiesto con forza e che il presidente Berlusconi fino ad oggi ha garantito. Ma senta, ma voi cosa siete? Un'associazione spontanea? Cioè, l'esercito di Silvio, cioè, avete un ruolo nel PDL o no? No, guardi, noi non abbiamo alcun tipo di collegamento con il PDL. L'esercito di Silvio è un movimento nato per dire che c'erano una buona parte di italiani, noi pensiamo quei 10 milioni, che si riconoscono in un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi e che volevano metterci la faccia come società civile dicendo che era arrivato il momento. Però scusi, alle ultime elezioni sono stati 7 milioni, non 10, vabbè, comunque si continua a dire 10, vabbè. No, ma guardi, sì, a prescindere che possono essere stati 7, l'esatta, adesso il numero io non lo so, ma... glielo dico, 7 milioni, 332 mila alla Camera, ma comunque, vabbè. Bene, io sono convinto che attraverso quello che stiamo facendo con l'esercito di Silvio, cioè di riattivare la società civile, siamo andati con un camper in tutte le città principali italiane, noi riporteremo a Berlusconi tutti quegli scontenti, quelle persone che non erano scontente del nostro leader, erano scontente forse di un partito che nel tempo si era abituato che bastasse Berlusconi e quindi non aveva saputo essere incisivo in mezzo alla gente. Noi dobbiamo riportarla. Guardi, mi ha fatto piacere ieri sera sentire il discorso di Berlusconi. Io non mi aspettato che avesse avuto la forza, il coraggio ieri sera di parlare di Forza Italia. Questa è la sua grandezza. Lui vabbè, però era già stato domani annunciato, no? Furlan, non si era già detto che ci sarebbe stato Forza Italia? E sì, quindi era un po' teso però Berlusconi, o no, ieri? Inevitabile. Mettiamoci nei suoi panni. Però vedi, era stato, cioè, non era un messaggio che a lei quel messaggio le ha comunicato ottimismo? Sembrava un po' come doveva essere, come giusto che fosse un uomo, boh, insomma, provato. Ma guardi, io ieri, sicuramente provato, e voglio dire, mettetevi nei panni di un uomo che per questo paese, questa è un'altra visione, so che magari voi non la condividete, ma no, ma al di là del fatto di, cioè, lei sta dicendo rilanceremo, cioè, ma se noi ci riguardiamo le immagini del Berlusconi del 94, che era, sì, ovviamente era più giovane, tutto quello che, però era anche una carica vera, un sorriso, un'energia. Il Berlusconi ieri sera era un'altra cosa. Oggi saremo noi la sua carica e lo vedrete. adesso ci organizzeremo e saremo noi la società civile, tanti piccoli, medi imprenditori, tanti liberi professionisti, porteremo quella carica esplosiva che già l'esercito di Silvio sta mostrando e tanti altri si uniranno. Io sono convinto che Forza Italia può essere davvero una rivoluzione vera dal basso per riconquistare il centrodestra e fare una cosa fondamentale, una riforma della giustizia, perché guardi, quando nel 93-94, a seguito di Tangentopoli, abbiamo accettato di togliere l'immunità parlamentare, giustamente schifati da quello che avevamo visto, non ci siamo resi conto che i nostri padri fondatori lo avevano bilanciato per bilanciare il potere della magistratura. Se mettiamo la responsabilità civile dei magistrati, abbiamo un potere completamente sbilanciato. Senta Furlan, ma lei nella vita cosa fa normalmente, a parte fare il fondatore d'esercito di Silvio? C'ha un lavoro, un'attività sua, così per capire? Sì, dicono che lavoro anche, sì. Sono un imprenditore nel campo alberghiero, ho un albergo e sono un consulente aziendale di direzione. E ieri però ha passato tutta la giornata lì, 8 ore sotto il sole per... Guardi, ho la fortuna che in agosto i miei alberghi sono prettamente business, per cui d'estate sono un po' più sereno. Ho un team eccezionale di ragazzi che mi sono costruito e quindi quando serve, come ieri, essere lì per dire presidente ci siamo, confida su di noi, non posso mancare, quindi ci vado. Ma voi insomma adesso cosa, cioè non lo so, Berlusconi cosa vi chiederà? Vi chiederà qualcosa? Lei ci ha parlato con lui intanto in queste ore? Guardi, non so se lei lo... non so se lei lo sa, ma nell'ultima tappa dell'esercito di Silvio a Padova lui ha chiamato e ha detto che questa è la Forza Italia che lui ha in testa, cioè tutta questa società civile che abbiamo unito. Quello che noi faremo nelle prossime ore è mettere in atto, come ho detto, questo presidio, innanzitutto per far iniziare questo dibattito sul fatto che vogliamo la grazia del presidente Berlusconi, perché riteniamo che quello che è successo sia una mutilazione della democrazia. Dopodiché quello che ci chiederà Berlusconi non lo so. Noi abbiamo voluto mettere in atto una cosa diversa da tutti. Normalmente tutti andavano dal presidente e dicevano che cosa puoi fare per noi. Noi abbiamo voluto dire, beh, c'è una società civile che è stanca di piangere sul fatto che l'economia va male. Sì, questo l'abbiamo capito, questo l'abbiamo capito. Furlan, però voi adesso chiedete la grazia a Napolitano, fate la petizione, però non è un po' in contraddizione l'esercito di Silvio che chiama tutti alla guerra, eccetera, e poi andate a chiedere la grazia, che invece è un gesto di appeasement, di, come dire, insomma, un gesto di pace. Voi fate la guerra, siete l'esercito di Silvio. No, questo l'avete detto voi, non so chi. Io dal primo giorno che ho fondato l'esercito di Silvio ho detto che era un movimento, lo chiamavo esercito perché occorreva ritirare fuori quella passione e quel coraggio che i nostri nonni dopo due guerre hanno messo in atto e hanno creato la grande Italia che oggi conosciamo. Non ho mai detto che noi avremmo fatto la guerra, ho sempre detto di noi dovete temere le idee, il coraggio e la passione, quindi guardi, l'esercito è stata una provocazione. Beh, però insomma, avete scelto voi come nome, poi anche nei vostri discorsi ci si parla appunto di combattere, l'ha detto prima anche Galan, cioè un clima che non so se si adatta alla richiesta che poi sotto traccia c'è di andare a chiedere a Napolitano la grazia. Mi sembrano due cose contrastanti, la guerra e la grazia. Se non danno la grazia al presidente Berlusconi, cioè se non permettono quella pacificazione che è stata chiesta, io credo che ci sarà una rivoluzione di popolo. Non è ecco, questo semmai lo capisco, cioè se non ci sarà la grazia ci sarà, però non fate la guerra prima, secondo me almeno, che si chieda la grazia, perché questo secondo me non aiuta. Ma poi secondo me, insomma, non lo so, magari il mio punto di vista non conta nulla. Ha visto atti di guerra nostri, abbiamo fatto qualcosa che lei... No, ma era sull'uso delle parole. Quindi se non ci sarà la grazia, cos'è che ha detto? Ci sarà una rivoluzione, secondo lei? No, io, guardi, credo che le nostre aziende sono ormai allo sbando. L'unico che noi riconosciamo come categoria imprenditoriale, in particolar modo i piccoli, i medi imprenditori, gli artigiani, il 97% delle nostre aziende, pensano che queste sono le idee e le cose che voleva attuare il presidente Berlusconi siano ancora le misure corrette. Non ha potuto farlo perché si è trovato per la strada i Casini, i Fini, tutta quella gente che non gli ha permesso di lavorare. Oggi occorre ridare fiducia al presidente Berlusconi e costruire il nuovo centrodestra assieme a lui. Questo bisogna fare. Se ci vogliono tagliare fuori il nostro leader, metterlo in queste condizioni vergognose, non è possibile accettarlo, non lo accetteremo. Va bene, Furlan, abbiamo capito. Grazie per tutto quello che ci ha raccontato. Grazie. Buona serata, in bocca al lupo per le vostre cose. Appuntamento lunedì davanti al Quirinale per l'inizio del presidio dell'esercito di Silvio. Però così si chiamano. D'altra parte, finché non cambiano nome, è questa la cosa, no? Gabardini, c'è qualcosa su Twitter? La domanda è d'obbligo. No, perché vedo che se leggendo scrivi... leggendo Twitter, diciamo, ricordiamo anche che oggi è il 2 agosto, quindi la strage di Bologna, che è assolutamente trending topic su Twitter, mi sembra anche però quali buon sono segno. I commenti? C'è qualcosa? Ma no, ce leggi dopo, adesso dobbiamo fare il giornale radio, ci sentiamo tra pochissimo, 800 24, 00024, dopo. And now, the good news! Rimini. Ogni anno, dal 2006, nei giorni più freddi dell'inverno, l'Hotel Britannia ospita barboni e senza tetto per un'intera settimana. Antonietta Curcio, titolare dell'albergo, mette a disposizione 33 camere, pernottamento, colazione e camerieri. Tutto gratis. Il Britannia ha 3 stelle, ma ne meriterebbe 7. Si può fare l'attualità anche d'estate. Elena al 349-238-6666, un'ascoltatrice mi corregge, ci corregge e dice: sono adolescenti, non bambini quelli di Radio Immaginaria. Forse assolutamente ragione. Ha ragione, perché non sapevo l'età di Giulia, sì, ma di Luca, pensavo che fosse più piccolino. Quando è che scatta l'adolescenza, Gabardini? Diciamo i teen, quindi 13 anni. 14, così. Siccome loro hanno anche quelli più piccolini, insomma. Ma è un bel mondo anche questo. La prossima settimana li risentiamo e vediamo un po' cosa hanno preparato i bimbi della gli adolescenti della radio. Come ci hanno spiegato loro, gli adolescenti non hanno peli sulla lingua e non commento l'affermazione. E sono vari, soprattutto. 800 24 00 24, abbiamo gli ascoltatori in linea. Chi facciamo? Maria Grazia da Padova, buonasera. Sì, buonasera. Ecco, io volevo intervenire alla vostra trasmissione che ascolto sempre per dare così un mio parere sulla vicenda che ieri ha colpito una grande maggioranza di italiani, penso, e altri invece hanno gioito. Vabbè, io sono nella maggioranza di italiani che è stata colpita, e sono stata colpita da questo fatto. Mi sono chiesta, ho sentito tanto parlare della giustizia. Allora, io faccio un distinguo. La giustizia è un concetto che dovrebbe essere acquisito, un concetto astratto acquisito e praticato con tutto quello che comporta. Gli esecutori della giustizia sono ben altra cosa, mi corregga se sbaglio, perché non voglio essere una persona che dice un'opinione e vuole che in assoluto sia ritenuta giusta. E mi piacerebbe, guardi, le lo dico anche sorridendo, perché tutta questa cosa mi ha fatto anche ridere, perché in effetti è vero, io mi ricordo quando Berlusconi nel 94, se non vado errato, all'inizio del suo mandato, che ha fatto il grande errore Berlusconi secondo me di considerare l'Italia un'azienda, la definita azienda Italia. Come imprenditore lui ha fatto benissimo, però in un'azienda c'è molta più facilità per un capo di comandare, e una cosa eterogenea come un popolo è molto più difficile, e lui l'ha provato di persona. Mi ricordo quella scena disgustosa, e chiedo se c'era bisogno di agire così, quando lui è stato ammanettato al G8, non si poteva aspettare o fare una cosa del genere, il buon senso, la buona educazione, il rispetto per chi l'aveva votato. Ammanettato, non esageriamo, Maria Grazia, gli è arrivato un avviso a comparire, Grazia, ma non è ammanettato, non diciamo ammanettato perché sennò esageriamo. Allora, no, sì. Forse ho sbagliato, mi ricordo male, forse lo dicevano ammanettato, magari perché è stato costretto ad abbandonare il G8, ma mi sembra di ricordare dalle immagini, sa, ho 68 anni per cui la mia memoria può anche tradirmi, mi sembra di ricordare che lui è stato costretto a lasciare appunto tutta la manifestazione che era in corso, per essere trasferito in una sede dove lui dopo è stato giudicato. Mi sembra di ricordare così, ecco, loro ho sbagliato il termine. Comunque già quello... se avessero ammanettato Berlusconi, cioè, ce lo saremmo ricordati. Gli è arrivato l'avviso di garanzia, adesso non ricordo esattamente, comunque di un coinvolgimento in un'inchiesta che poi si rivelò nel quale lui non aveva, diciamo, colpe, e questo, diciamo, mentre lui presiedeva il G8. fatto quella riunione a Napoli e quindi facendogli fare una brutta figura. E vabbè, però non ci furono le manette. Questo no, è la critica è sulla tempistica, nel senso che il momento arrivò in un momento. Vabbè, Maria Grazia, lei ha fatto un discorso lungo, poi è arrivata, andata a ritroso come il gambero all'indietro al 94. Vuole concludere con qualcosa, diciamo, che guarda al futuro oppure no? O anche un pezzo sul Medioevo. Gli altri. Ma... concludo subito, mi piacerebbe sapere e vedere se magari qualcuno nel partito dell'opposizione avesse anche lui qualche rognetta di quel tipo lì e avesse delle persone che sono già etichettate politicamente che lo giudicano. Mi piacerebbe vedere così per ma chi è etichettato politicamente, scusi? I giudici. Da quello che ho sentito alcuni magistrati. Ma lei cosa ha sentito? Scusi, lei sa che Berlusconi è stato ammanettato nel 94, cosa che non è vera. Mi pareva. Cosa che non è vera. I giudici sono già etichettati politicamente. Ma lei come si informa, Maria Grazia? Stia attenta a quello che dice. Ecco, scusi, le ripeto. Perché mi sembra che fa un po' troppe semplificazioni. Comunque, vabbè, Maria Grazia. Grazie per essere stata con noi. Andiamo a Luigi che chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera. Eccolo, prego. Allora, guardi, io vorrei fare, al di là diciamo del caso specifico di cui si discute in questi giorni, cioè il processo Berlusconi, vorrei fare una riflessione che riguarda un po', allora parliamo del futuro, no? Cioè in Italia che la magistratura non funzioni, che la giustizia non funzioni, penso che sia un concetto largamente diffuso e condiviso da larga parte delle forze politiche di destra, di sinistra e così via. Però alla base di questo secondo me c'è un vulnus, una cosa che rende la nostra democrazia incompiuta e che non ho mai sentito portare all'attenzione da parte di nessuno, cioè di tanti giornalisti che affollano le nostre reti televisive, i mezzi di informazione, la radio eccetera. Cioè il principio è questo. Noi il nostro Stato, la nostra democrazia si fonda sulla Costituzione, no? Secondo lo schema di Montesquieu, cioè potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario, anche se chiamare potere giudiziario la magistratura che vince soltanto un concorso mi sembra improprio. Comunque la Costituzione parla chiaramente all'articolo 1 che la sovranità appartiene al popolo. Ora il popolo. Però non ci faccia una lezione di diritto di rovescia, perché sennò... Concludo subito. Allora, se appartiene al popolo, il potere legislativo e il potere esecutivo sono controllati dal popolo attraverso le elezioni, perché le elezioni consentono un ricambio e così via. La magistratura è inamovibile, non ha nessun controllo. Vabbè, ma questa è la questione vecchia quanto il cucco in Italia, del fatto che la magistratura non è eletta. In America ne parliamo da 20 anni, va bene, però Luigi, è questo che voleva dire? Sono eletti, sì. E questa è la democrazia, altrimenti è inutile parlare. Guardi, però se noi prendiamo pezzi di democrazia qua e là, i giudici eletti in America, il presidenzialismo francese, il maggioritario inglese e Montesquieu abbiamo fatto quaterna. No, scusi un attimo, sì. Io non voglio dare nessuna soluzione, io voglio dire come si... ma è un tema che c'è sul tappeto, l'hanno detto in molti già oggi. La riforma della giustizia di cui parla Napolitano forse comprende anche questo capitolo qua, però è una delle tante cose di cui si parla da 20 anni. Vabbè, Emanuele, grazie. Andiamo a chi facciamo? Filippo da Vicenza, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Innanzitutto vi ringrazio della possibilità di esternare quello che penso. Sì. Allora, innanzitutto io suggerisco all'onorevole Berlusconi si dimetta, si faccia da parte, perché è il momento di sedersi e riflettere. Seconda cosa, io guardi proprio in questi giorni, su questa sentenza, le voglio solo leggere quello che c'è scritto nel momento in cui notificano dei decreti a titolo penale o quant'altro. No, non ce lo legga, Filippo, la prego, perché sennò qua facciamo notte. Già ho detto che Epifani ha fatto la dichiarazione che sembrava un giudice, non ci si metta anche lei. Ci legga una poesia di Bondi piuttosto. Ecco, magari. Ce l'ha? No, decido solo quello che è interessante per tutti. No, non ci interessa, basta Filippo, non ci interessa che ci legga il decreto, perché davvero. Adesso invece voglio fare un'altra cosa, ci abbiamo un ospite, sigletta. Oh, Gavardini, hai letto l'intervista di De Gregori sul Corriere? Sì, signore. Oh. Allora, avrai visto come De Gregori, che sa usare bene le parole, se l'è presa con la sinistra, se l'è presa con la sinistra e ha detto: la sinistra ormai è ridotta a quella cosa che idolatra le piste ciclabili e si commuove per slow food. Apriti cielo, De Gregori. Ha detto tante altre cose. Il titolo l'hanno fatto su questo. Sì, apriti cielo, De Gregori, mostro sacro della sinistra che se la prende con slow food, altro mostro sacro della sinistra. Allora, noi vogliamo dirimere questa questione e abbiamo convocato Roberto Burdese, che è presidente di Slow Food Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, come vi sentite nei panni di quelli che, insomma, sono, lui non ha usato questa parola, un po' i fighetti della sinistra? Non so come. Ma premesso che se fossi Cazzullo andrei a rifare l'intervista a De Gregori per farmi spiegare alcune parti. Quella frase lì non si capisce bene, nel senso che non si capisce se De Gregori ce l'ha con Slow Food oppure con la sinistra. Che, vabbè, non è così male. Con la sinistra ce l'ha di sicuro. Tra l'altro dice che ha votato Monti alle ultime elezioni, che non è perché proprio dice, di si commuove per Slow Food e poi strizza l'occhio ai notav come se fosse un atteggiamento contraddittorio, no? E allora, insomma, non era molto chiaro. No, detto questo, a parte gli scherzi, ne è venuta fuori una cagnara pazzesca, perché nel titolo hanno scritto: la sinistra persa tra Slow Food e Notav, e tutti in Italia hanno commentato quella roba lì, spingendosi a dire che sì, è vero, perché la sinistra è fighetta, perché fa Slow Food, e mai nessuno che si prova a interrogare sulla vera sostanza delle cose. Proviamoci a interrogare, noi per questo l'abbiamo convocata, però è inevitabile mettere insieme degli elementi così, con questa identità, De Gregori, insomma, il cantante della sinistra, eccetera, e Slow Food, che ormai è diventata una specie di monarchia o repubblica, non so come definirla, insomma, del mangiare bene, della cultura, i Mamma Santorum, Petrini, i convegni, insomma, quindi che sono cari alla sinistra, quindi è inevitabile che questa cosa accada. Sì, poi tra l'altro la cosa curiosa è che uno dei soggetti che più ha mostrato nella storia politica italiana sensibilità nei confronti di Slow Food è stato un presidente di Regione Piemonte del PDL, che allora di Forza Italia e poi del PDL, che si chiama Enzo Ghigo, quindi bisognerebbe sfatare anche un po' il mito che siamo appunto un'icona della sinistra. Ma detto questo, allora, premesso che uno può criticare Slow Food in quanto associazione, organizzazione, legittimo, e non sono qua a fare la difesa d'ufficio del mio ente, il concetto è questo qua: noi quello che vorremmo rappresentare con l'idea di Slow Food è l'idea che il cibo è una delle cose più importanti della nostra vita, perché da come mangiamo dipende la nostra salute, la qualità dell'ambiente, l'economia, la cultura, l'identità, il paesaggio, il turismo, e quindi tantissime cose che riguardano la vita di tutti noi, perché sono il nostro lavoro. E fin qua è vero, certo. Cerchiamo di fare educazione, cerchiamo di fare anche attività di salvaguardia, un po' come fa il WWF con il panda. I nostri panda sono quei piccoli casari, quei piccoli norcini, quei piccoli allevatori che un po' in tutta Italia stanno sparendo perché il mercato non accetta questi prodotti marginali, prodotti in poche unità, vuole prodotti omologati in grandi quantità, solo che perdendo quei prodotti perdiamo qualcosa che vale quanto il panda e forse più. Se uno si limita a guardare al fatto che alcuni di questi formaggi costano carissimi, come d'altronde non avrebbe prezzo se uno volesse comprarsi un panda e portarselo a casa, allora certo che è un po' strabica la visione, perché guardiamo il prezzo, manco fossero prodotti che mangiamo tutti i giorni. Ma per esempio andare a cena in un ristorante slow food, quanto può costare mediamente? Allora, i ristoranti slow food non esistono, ma se vogliamo rifarci a un riferimento, noi abbiamo una guida che si chiama Osterie d'Italia, dove segnaliamo ristoranti della tradizione legati ai territori, e abbiamo una soglia di prezzo massimo 35 euro. Quindi il prezzo è contenuto, e questa la facciamo da 25 anni, abbiamo proprio fatto questa scelta, non facciamo l'ennesima guida dei ristoranti stellati, eccetera, andiamo sulle osterie perché è lì il vero scrigno dei saperi tradizionali della nostra cucina, e ci deve anche essere un limite di prezzo. Poi è chiaro che per chi fa fatica ad arrivare a fine mese anche 35 euro sono tanti, però ci sono anche indirizzi dove con 20 euro si mangia più che bene, ecco. Ma qui insomma questa cosa di De Gregori mi sembra di capire che vi ha fatto più che altro pubblicità, non ve la siete presa più di tanto, cioè ma... voi dite bisogna andare oltre, Cazzullo avrebbe dovuto fare una domanda in più su questo, non vi sentite nel mirino per essere, essere al posto dei circoli? Una volta c'erano i circoli ferroviari, il Partito Comunista e il PD si discuteva di cose che riguardavano il popolo, adesso c'è Slow Food, questa sembra un po' la vulgata, no? Questo magari. Voi non ve lo sentite addosso? Ma assolutamente no. Tra l'altro De Gregori una settimana fa è stato a suonare proprio a Bra e il pomeriggio del concerto ha fatto un'intervista a Repubblica dove parlava bene di Slow Food, quindi è per quello che io ho qualche dubbio sull'interpretazione dell'intervista di Cazzullo. Però è la Repubblica, questo è il Corriere, chissà, magari ha deciso di avere una linea diversa. No, c'è una cosa che volevo ancora dire. Siamo un paese che nel 2015 si appresta a ospitare un Expo mondiale sui temi dell'alimentazione con titolo Nutrire il pianeta e in tutta Italia ci si interroga su che cosa bisogna fare per arrivare pronti a questo Expo. Sì. Il Premier ha detto occasione di rilancio, eccetera. Ecco, io dico, al di là, ripeto, della mia organizzazione, ma l'idea, il concetto, la filosofia dello Slow Food, che è molto italiana, cioè questo approccio al cibo nella sua dimensione complessa, multidisciplinare, va rilanciata secondo voi anche in vista di questo Expo? Quanto vale in termini di PIL per esempio questa filiera insomma del agroalimentare, del Made in Italy, dal punto di vista appunto anche della so che è brutto alla radio del Sole 24 Ore dire che sono arrivato impreparato sui numeri, ma non voglio dire una boiata. So che oggi l'industria agroalimentare italiana dà più occupazione ad esempio del settore metalmeccanico, però si parla solo della Fiat e di Marchionne e non si parla ad esempio di Guido Barilla, di Lavazza, di... Ecco, questo è vero, perché se i numeri Ferrero che dici sono veri, e in effetti insomma è un settore importante, se si riempiono le pagine sull'Ilva e sulla Fiat e non si parla mai di voi, se non quando De Gregori vi... Poi metteteci il turismo, sì. Metteteci le piccole produzioni, mettete soprattutto il fatto che queste piccole produzioni, dato che presidiano i territori, perché chi fa certi prodotti continua a vivere in montagna, nelle isole, nel sud Italia, nelle zone marginali e per esempio facendo agricoltura di qualità previene le alluvioni, previene gli incendi, previene le frane, quindi ci evita costi che la collettività va poi a pagare, che vanno tra l'altro magari a incidere sul PIL, perché ovviamente come dire, poi dopo i lavori per rimettere a posto le cose fanno crescere il PIL, ma quello è un PIL della tragedia che sarebbe meglio non avere nella... Quindi voi vorreste essere ancora più centrali forse nella politica italiana e anche nella sinistra o anche nella destra, cioè è vero che il biologico è di sinistra e l'OGM è di destra per esempio, banalizzando? No, guardi, ancora una volta ci sono diversi esponenti del centrodestra che si sono schierati, in primis l'allora ministro dell'agricoltura Alemanno contro gli OGM. Poi dopo è vero che forse se li andiamo a contare sono più quelli di sinistra, ma alcune battaglie per fortuna in questo paese sono trasversali e non è un caso che ad esempio sugli OGM per adesso siamo riusciti ad avere un fronte abbastanza comune e maggioritario che ha impedito l'apertura alle coltivazioni. Io credo che però, ecco, a me non interessa che sia più centrale nel dibattito politico italiano Slow Food, a me interessa che sia più centrale nel dibattito politico italiano quel mondo di cui in qualche misura noi siamo rappresentanti, poi che vengano a farlo attraverso Slow Food o che vadano a farlo in altre forme con altri soggetti, a me non interessa. Va bene, noi abbiamo solo voluto così, Burdese, cercare di entrare un po' su questa polemica che coinvolge due mostri sacri della sinistra, comunque diciamolo, De Gregori e Slow Food. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. E buon appetito. Oddio, ho detto arrivederci a un ospite, non potevo parlare. Perché non ho capito se era un ospite col quale potessi parlare o non potessi parlare. Un ospite col quale non potevi parlare, perché come tutti gli ospiti, forse col punto di vista strambo puoi parlare. Esatto. E questo non era un punto di vista strambo. No, questo è un ospite. Questo era un punto di vista. No, perché volevo dire una cosa che secondo me, in realtà, cioè, la questione di Gregori, nel senso che la semplificazione è il fatto di dire semplicemente la sinistra è solamente Slow Food. La vera questione è che c'è un sacco sacco di gente che, diciamo, si lava la coscienza con slow food e quindi si occupa solo di slow food e poi fa delle cose terribili, nel senso che slow food è bellissimo dal suo punto di vista, ma fare solamente slow food per uno che è di sinistra e dopo invece fare delle cose assolutamente non di sinistra, questo mi sembra il problema del quale parlava De Gregori. Non è che diceva è brutto slow food, è occuparsi solo di slow food e piste ciclabili. Le piste ciclabili ben vengano. Domani lo richiamiamo e gli facciamo questa domanda. Va bene. Domanda indifferita dello stagista. Però come stagista allora sei promosso, perché questa domanda mi è piaciuta. Ti ringrazio. Oddio, ma è veramente la mia promozione? Arrivati alle 19.54, salutiamo anche, saltando l'intervento degli ascoltatori che riprenderemo tra un attimo, Dario Stefano, buonasera. Buonasera, buonasera. Senatore di SEL, presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, cruciale nella vicenda Berlusconi, perché è lei che convoca la Giunta per il voto sulla che deve far decadere Berlusconi. Ma in verità la Giunta è già convocata, perché... Non ha perso tempo lei, convocata... Era già convocata perché per un fatto del tutto casuale o forse... di destino, noi ci troviamo in questi giorni ad affrontare il tema della verifica delle elezioni nella regione Molise, la regione nella quale Berlusconi è stato eletto, sì, sì, perché ha optato per la regione Molise, e quindi siccome la incandidabilità sopravvenuta, questo è la fattispecie nella quale incorre senatore Berlusconi a seguito del pronunciamento della Corte Suprema, per incandidabilità sopravvenuta noi andiamo ad incastonarci nella procedura della verifica delle elezioni. Cioè, c'era già la seduta convocata per mercoledì, questo. Convocata la seduta nella quale, se ci sarà stata notificata la sentenza, noi aggiorneremo la posizione del senatore Berlusconi in merito alla sua cosiddetta capacità elettorale. Guardi, io le posso dare questa notizia che è arrivata poco fa, non so se la riguarda. È stato notificato a Roma dai carabinieri il decreto di esecuzione pena con sospensione per la vicenda Mediaset a Silvio Berlusconi. La notizia ha trovato conferma in ambienti giudiziari. L'ex premier avrà tempo fino a metà ottobre per chiedere misure alternative al carcere. Questo per quanto riguarda appunto l'agenzia, l'ho letta anch'io, però perché a Roma è stato notificato, non sta a Milano Berlusconi, non è il tribunale, sì, ma di Milano. Ci deve essere notificato, no, Milano la deve notificare al Senato, perché essendo Berlusconi un senatore, quindi un parlamentare, sì, c'è una procedura parlamentare da seguire, e quindi la Giunta, quindi la sentenza viene notificata al Senato, alla presidenza del Senato, la quale per competenza la passerà a noi, sì, voi, e noi opereremo. Però ecco, ad entrare in azione, perché tutti guardavano, sì, tutti guardavano all'interdizione che ha chiesto il Tribunale di Milano e che la Cassazione ha rinviato a Milano, che si decida riducendola da 5 anni a 1-3 anni. Però in realtà ad entrare in azione è la legge votata anche dal PDL del governo Monti, no? Sulla anticorruzione. Sì. Se è una buona legge, secondo lei? Ma se non ci fosse stata quella legge, noi certamente non avremmo potuto operare così come invece siamo oggi nelle condizioni di operare in termini di incandidabilità sopravvenuta. Resti con noi, resti un attimo con noi, Stefano, dobbiamo fermarci perché c'è la pausa che dobbiamo fare necessariamente. Torniamo, se ha tempo di rimanere con noi, 2 minuti di attesa, good news, pausa e poi di nuovo con il presidente della Giunta per le immunità del Senato. And now the good news. Francesco Cucari di Rotella, provincia di Matera, all'età di 19 anni ha ideato il Dizionario dei Rifiuti, la prima app che semplifica la raccolta differenziata. Basta scrivere il nome del materiale da riciclare e l'app ti indica in quale contenitore gettarlo. Oggi il suo sistema è stato adottato da numerosi comuni e province in tutta Italia. Stay angry, stay rubbish. Intanto il clima si scalda un po', perché c'è una dichiarazione del vice premier Angelino Alfano che dalla riunione dei gruppi del PDL a Palazzo Grazioli dice: se c'è da difendere i nostri ideali e la storia di tutti noi e la storia del presidente che coincide con la nostra, siamo pronti alle dimissioni a partire dai ministri del governo. Questo ha detto Alfano, dunque insomma si alzano almeno i toni verbali per il momento. Siamo in linea con Dario Stefano, diciamo presidente di SEL, della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama, che in quanto tempo prevede che... Mercoledì avete già convocata quindi la Giunta, mercoledì questo. Era già convocata. E quindi affronterete anche il caso Berlusconi. Sì, lo stiamo già affrontando. Mercoledì, se ci sarà stata notificata la sentenza, aggiorneremo la posizione di Berlusconi e continueremo a discutere, perché c'è tutta una procedura prevista dal regolamento a mo' di contenzioso che noi dobbiamo consumare. È una procedura che porterà il relatore a fare una proposta alla Giunta, la Giunta la voterà, dopodiché noi dovremmo notificarla e quindi contestarla a Berlusconi nel caso in cui voteremo la decadenza. Berlusconi avrà diritto di dedurre, di controdedurre, poi ci riuniamo in Camera di Consiglio, decidiamo e mandiamo all'Aula. Una procedura che detta così può apparire lunghissima, invece io credo che noi saremo nelle condizioni di svilupparla in un mese, quindi nello spazio di un mese mandare la decisione all'Aula. Quindi entro l'inizio di settembre? Beh, ora l'inizio di settembre non lo so, perché dipende un po' anche dalla... Ha detto un mese, siamo al 2 agosto. Sì, ho capito. Intanto non c'è stata notificata. A me non è stata notificata. Diciamo, dal momento in cui vi verrà notificata, però notificata, vedo che le agenzie sono molto... È stato revocato per esempio il passaporto a Berlusconi. Credo che questi passaggi stiano avvenendo, insomma. Poi naturalmente è chiaro che voi avete i vostri tempi. Lei ha detto in un mese e quindi... In un mese da quando c'è la proposta del relatore noi possiamo chiudere la procedura. A quel punto lì poi il voto sarà segreto o palese intanto? Il voto in aula è segreto se lo richiedono 20 senatori, almeno 20 senatori. E in queste fattispecie, non della incandidabilità sopravvenuta, ma in generale sui voti alle proposte della Giunta per le elezioni si è sempre votato a voto segreto. C'è un'altra notizia di pochi secondi fa che fa salire ulteriormente il termometro, diciamo, della situazione politica, è questa: i parlamentari del PDL, a quanto saprende, al termine della riunione dei gruppi hanno consegnato ai capigruppo Schifani e Brunetta le loro dimissioni. Schifani e Brunetta si recheranno al capo dello Stato portando le dimissioni dei due gruppi parlamentari e chiedendo il ripristino della giustizia. Questo è quello che scrive l'agenzia ANSA poco fa, non ci sono virgolettati, però sembra che questa sia la direzione. Cioè, Schifani e Brunetta, da napoletano che non vuole essere nei suoi panni, perché naturalmente cosa deve fare napoletano? L'unico strumento che ha avrebbe teoricamente la grazia per ripristinare la giustizia, secondo quello che sarà la richiesta, immagino, dei capigruppo. Stefano, lei è anche un senatore di SEL, come valuta questa situazione, questa presa di posizione del PDL? Ma guardi, io oggi sono chiamato ad un ruolo delicato e anche di responsabilità e di equilibrio, e quindi mi sottraggo a commentare cosa fanno gli altri. Dico che per mia cultura le sentenze non si contestano, si rispettano, e si rispettano anche quando producono effetti negativi nella propria parte politica. Io ero rimasto ben impressionato negli ultimi giorni, nei giorni precedenti alla sentenza, anche dall'atteggiamento del senatore Berlusconi, che era un po' in discontinuità rispetto al passato. Mi sembra che le dichiarazioni di questi minuti, diciamo, non siano allineate a quell'atteggiamento. Io considero che sia un errore. Va bene, grazie, buona serata. Dario Stefano, presidente della Giunta per le Immunità del Senato di SEL. Grazie per essere stato con noi. Adesso titoli del TG1, TG1, via. Il giorno dopo la condanna definitiva nel processo Mediaset, Berlusconi riunisce i parlamentari, riforma della giustizia o pronti al voto. Letta: è un momento complicato, ma lo stop al governo sarebbe un delitto. Davanti a tutto bisogna mettere l'interesse per il paese. Epifani: il Senato si adegui alla sentenza della Cassazione. Grillo: nessuno approvi la riforma della giustizia con il PDL. Anniversario della strage di Bologna, Napolitano, fare piena luce, la presidente della Camera Boldrini si commuove, risposte sui mandanti. Varato il decreto sulla cultura, arriva un direttore generale per Pompei, fondi per cinema e musica, nuove assunzioni per i giovani. Stati Uniti, allarme Al-Qaeda per i turisti americani, domenica chiuse le ambasciate nei paesi islamici, il TG1 tra gli italiani di Sharm el-Sheikh. Flavio Insinna torna su Rai 1, in autunno sarà di nuovo alla guida di Affari Tuoi, la fortunata trasmissione che lo ha reso popolare. Il gioco dei pacchi festeggia così 10 anni di successi. E allora riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo Vincenza, credo, da Palermo. Buonasera Vincenza. Salve, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io volevo esprimere quello che è la mia opinione relativamente, insomma, alla sentenza di ieri. Scandaloso come l'atteggiamento di pietismo del presidente Berlusconi in TV faccia apparire chissà quale ingiustizia subita, quando lo stesso ha nell'arco di tantissimi anni è riuscito a farla franca grazie proprio ad una giustizia che non funziona proprio alla perfezione, ma non che non funziona alla perfezione nel senso in cui lo intende lui e tutta la sua classe politica, bensì relativamente al fatto che tantissimi reati accertati sono andati in prescrizione, quindi non ha subito nessuna pena, nessuna condanna, e si è riusciti solo in quest'unico caso a condannarlo sulla base di fatti, di dati certi che sono stati confermati in primo grado, che sono stati confermati in appello, e che la Suprema Corte, che ricordiamoci si limita ad intervenire relativamente ad un giudizio di legittimità e non di merito, ha confermato. Anzi, per quanto mi riguarda, anche l'interdizione è stato un enorme regalo che lui ha ricevuto. Il fatto che l'interdizione sia stata annullata, rinviata nuovamente alla Corte d'Appello, è già un grosso vantaggio, quindi dovrebbe stare zitto. Beh, non è stata rinviata comunque, non è stata annullata, semplicemente che devono decidere. Esatto. Ecco, devono decidere. Ma io volevo chiedere a chi magari ne sa più di me, in attesa di questa riformulazione degli anni che gli toccherà fare di interdizione, la stessa dovrebbe comunque essere già esecutiva. Sì, abbiamo già detto, grazie a questa ascoltatrice, abbiamo già detto, c'è la legge dell'anno scorso del governo Monti, l'anticorruzione votata anche dal PDL, che prevede per pene definitive come quella di Berlusconi l'incandidabilità e quindi diciamo l'avvenuta incompatibilità con la posizione, sì, di senatore, che in realtà rende quasi superflua, se vogliamo, la questione dell'interdizione, sì. Anche se la vera cosa è che lui non può, c'è l'incandidabilità, ma in realtà lui può fare il premier, però sì, Berlusconi può fare il premier. Sono due cose diverse, ovviamente. Ci sono le immagini della fine della riunione del PDL, dei gruppi parlamentari del PDL a Palazzo Grazioli, stanno uscendo tutti, i volti distesi, si vedevano prima, credo, rubate da un telefonino le immagini interne trasmesse da Sky TG24, tutti in piedi da applaudire. Berlusconi non ha sentito l'audio, ma insomma la sostanza l'abbiamo sentita. Hanno rimesso le loro mandato, insomma, le loro dimissioni nelle mani di Schifani e Brunetta, che andranno, credo, non so se già questa sera, forse no, da Napolitano. Luca da Varese, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Innanzitutto complimenti per l'ottimo prodotto che confezionate ogni sera per noi ascoltatori. Grazie, ci provo. Grazie. Secondo poi, volevo rispondere semplicemente a quella battuta menzionata prima da quell'imprenditore, il signor Antonino, che ho sentito un'ora fa circa. Ecco, forse quella persona si scorda semplicemente che viviamo in un sistema che giustamente ha dei contropesi, tra cui anche il nostro sistema giudiziario, pensato proprio per limitare i poteri e gli eccessi, e che poi quei tali 7 milioni di cui si parla in quest'ultimo evento sono stati ridotti a questo ammontare perché tutti gli altri precedenti anni fiscali non sono stati conteggiati in quanto raggiunti da prescrizione, raggiunti da decurtamento del reato. Quindi essenzialmente ha prima pensato bene, se mi passate questa iperbole, a livello politico di portare sempre avanti i processi e far sì che di volta in volta non potesse essere conteggiato quell'anno fiscale che gli veniva computato, arrivando ad una pena che in ultima istanza è 7 milioni, ma che in realtà era un cumulativo molto maggiore. Forse si dovrebbe quindi a questo punto portare più rispetto a quel potere, così viene definito oggi, che è un contropeso allo strapotere politico. Questo forse, a mio avviso, è quello che sarebbe dovuto fare. Contrappeso, lei continua a dire contropeso, ma si dice contrappeso. Va bene, grazie. Sì. Grazie Luca. Ci sono le immagini, sempre c'è un Formigoni sgargiante, tutto allegro, che sta davanti a Palazzo Grazioli col telefonino. Volti molto distesi. Leggo un tweet sulla strage di Bologna di Claudio Lombardi, che dice: da bambino allora ho pensato, da grande saprò chi è stato. Oggi dei colpevoli nessuna traccia. Lo leggo perché comunque il 2 agosto 1980 come hashtag è trending topic su Twitter, e mi sembra giusto, anche se noi, cioè, giustamente parliamo di questa sentenza. Vedi, bomba. Twitter è sorprendente, scusate, perché c'è Justin Bieber, esatto, e poi però c'è anche il 2 agosto, così. Ed è trending topic, secondo me è giusto. Ripeto, nel senso che c'è una sentenza bomba che è quella su Berlusconi, però c'è anche una bomba senza sentenza e mi sembra giusto parlarne. Emanuele da Biella, buonasera. Buonasera, prima di tutto complimenti, li faccio a voi perché se li facessi a Cruciani praticamente mi insulterebbe. Ma no, sarebbe contento, perché? No, complimenti sempre. No, li fa a noi io... perché ci siamo noi adesso, non per altro. Comunque vada, Emanuele. Allora, oggi mi capita spesso di stare sui social network, ho visto gente che festeggiava e sono rimasto schifato dagli italiani. Sono italiano, ma non mi considero quasi più italiano. Vedere la gente che, va bene, condannato Berlusconi, tutti i problemi dell'Italia sono risolti. Mi sembra un controsenso. Ma lei dove l'ha vista questa gente che festeggiava? Su tutti i social network. Ieri sera stavo tornando a casa, nel momento in cui c'è stata la sentenza, le macchine che andavano in giro col clacson. Vabbè, ma c'è, ma questa è l'Italia da alcuni anni, ci sono questi italiani qua, poi ci sono quegli altri che ce l'hanno con tutti i magistrati e che continuano a parlare di persecuzione. Ci sono queste due Italie che vanno avanti e, che dobbiamo fare? Non è che sia una grossa novità, insomma. Mi sembra veramente un controsenso. No, non è un controsenso, è così. Emanuele, grazie, buona serata. Allora, tra poco faremo l'ultima good news, il traffico, poi l'ospite. Abbiamo ancora una frazione di tempo per gli ascoltatori. Chi facciamo? Mauro da Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io volevo praticamente dare una delusione a tutti i comunisti all'ascolto, escluso voi, perché non siete comunisti. Non siamo all'ascolto. Ah, no. perché praticamente si finirà tutto in una bolla di sapone. Prima di tutto perché secondo me Berlusconi è stato condannato a 4 anni. I 3 sono stati condonati, quindi un anno soltanto. Quindi non decade neanche da senatore, primo. Secondo, arriverà tra un poco, è già stata scritta. Il capo dello Stato ha già fatto il suo bel pezzo di carta, e sta condonando Berlusconi, è già pronto, guardate. Ah, ci sta dando una notizia pazzesca, nel senso che lei sa che Napolitano ha in mano la grazia per Berlusconi? Ma guarda, al 100%, se al vuole 100%. Mi richiami e poi ci scommettiamo una pizza io e lei. Io non so che fare, Mauro, con lei, perché cioè, non so se arrabbiarmi o far finta di nulla, perché lei cosa sta dicendo? Sta dicendo delle fesserie. Perché? Però fa quello che c'ha la verità in tasca, non ho capito dove vuole arrivare. Voglio arrivare sul fatto che praticamente la giustizia è completamente malata, perché stiamo ancora aspettando che il signor Cabobo, il nostro amico, che ha ammazzato 3 persone, e ancora praticamente non si sa neanche che il processo quando glielo Chi? Fanno. Cabobo. Ah, sì, sì, sì. Ecco, è alla vista di tutti che la giustizia non va bene. C'è troppa velocità su Berlusconi, ve ne accorgete? Mm. Ma è sotto gli occhi di tutti. Sì, ma la velocità c'è, sicuramente c'è la lentezza su altre cose. Dopodiché, se in Germania un ministro si dimette perché ha copiato la tesi di laurea, mettiamo che Berlusconi questa evasione fiscale, come dice la sentenza, l'abbia commessa oppure no, è un reato. Non è che si può far finta di nulla, capito? Poi c'è il problema della giustizia che non si occupa di altre cose abbastanza velocemente. Però dobbiamo farci una ragione, c'è una sentenza definitiva, e dopodiché poi uno è libero di votare Berlusconi tutta la vita, anche se è incandidabile. Però la sentenza c'è. Ma scusi, l'ultima cosa che voglio dire e poi lascio. voglio dire che io voterò Berlusconi finché Berlusconi è in vita, primo. Secondo, che è finché si candida, perché finché è in vita, se sta a casa sua non lo può votare. Ma lui no, ma lo votano anche se non si candida. Ma lui, sì, io voterò sempre lui. Anche tra l'altro, scusate un attimo. Questa è un'altra fesseria che ha detto, sì. E poi l'ultima cosa, vabbè, sono punti di vista. No, sono fesserie, non può votare uno che non si candida, mi scusi Mauro. Io non ho detto che non si candida. No, Gabardini ha detto così, se lui non si candida, lei cosa vota? Lo stesso Berlusconi anche se non si candida? Ha detto sì, lo voto lo stesso. Come prima ha detto un'altra... In teoria non si può candidare, come ha detto prima Alessio, un'altra fesseria sul fatto che dell'interdizione, si informi perché è già decaduto da senatore, perché c'è una legge, e quindi questa è un'altra cosa. Mauro, lei... dico l'ultima fesseria e poi me ne vado. Sì, bravo. Signor Grillo è un condannato, ha ammazzato tre persone, e allora quelli del Movimento 5 Stelle cos'è che cercano, cos'è che vogliono? C'hanno il loro leader che è un condannato per omicidio. Mauro, grazie. Grazie, neanche tanto grazie. Comunque, facciamo questa pausa per il traffico preceduta dalla good news, poi ancora qualche ascoltatore. 800 24 0024, speriamo un po' meglio di Mauro. And now the good news. Nel cuore dell'area C di Milano, dove vigono le limitazioni al traffico privato, lo studio legale L'Excellent ha deciso di regalare una bicicletta a tutti i dipendenti e i collaboratori per facilitare la loro mobilità in centro. Avete voluto la bicicletta? Adesso pedalate! Si può fare! Si può fare! L'attualità, anche d'estate. Oh, intanto la serata di oggi è quasi più concitata di quella di ieri. Le notizie sono queste: la riunione dei gruppi parlamentari a Palazzo Grazioli, consegnate le dimissioni, questa però è un'agenzia credo ancora informale, nelle mani dei capigruppo Schifani e Brunetta, che andranno al Colle non si sa quando. E ci sono anche le dichiarazioni virgolettate all'uscita di questo incontro, per esempio la Santanchè che dice: noi abbiamo solo un'idea su come il presidente Giorgio Napolitano potrebbe intervenire sulla condanna a Berlusconi. Quindi è chiaro che adesso l'attenzione del PDL si concentra tutta su Napolitano, al quale chiedono di dare la grazia. Sentiamo il dovere di andare da Napolitano a chiedere la grazia. Un altro virgolettato di Schifani. E poi Brunetta ha detto: in caso non ci fosse la grazia, già stiamo mettendo le mani avanti, difenderemo la democrazia. Questa è la situazione alle 20:18. Giuseppe dalla provincia di Pisa, buonasera. Buonasera. Prego. Ma io volevo intervenire per quel fatto di quel signore, quell'imprenditore che difendeva Berlusconi, che diceva che lui era un imprenditore e che quello che ha fondato l'esercito di Berlusconi a difesa di Berlusconi. Cioè, io quello che voglio dire è questo: come si può in una democrazia italiana sentire queste cose? Cioè, danno talmente fastidio che non è possibile. Cioè, con quale faccia noi difendiamo un signore che, nel bene e nel male, se ha sbagliato deve pagare come pagano tutti i cittadini italiani? È questo che voglio dire. Cioè, a me dà fastidio una Santanchè che si vergogna di essere italiana, ma se si vergogna di essere italiana, che sta sfruttando il popolo italiano, perché sfruttano tutti il popolo italiano, cosa vogliono? Se non vogliono più stare in Italia, ma che se ne vadano. Va bene, Giovanni, Giuseppe, grazie. Io non so cosa sta scrivendo Carlo Gabardini, la tesi della fine di questo stage. Esatto. Dopo la prima settimana qua in studio con noi, insomma. Le mie dimissioni stavo scrivendo, è ovvio, no? Mi hai detto devi consegnarmi le dimissioni e io obbedisco. Stai twittando? Sto anche twittando, ammetto che sto anche twittando. Ma leggici qualcosa ogni tanto, non tenetele tutte per te. Io twitto delle cose che ho già detto in radio, perché l'esclusiva ce l'avete voi da contratto. Questo mi piace. Allora andiamo a Modena, dove ci chiama Fausto, buonasera. Buonasera, scusi, metto via l'auricolare, ci sono in auto. Prego, noi intanto aspettiamo, però ci racconti qualcosa mentre metti via l'auricolare. Sì, da stadio, ci provo. Premetto che sono anti-berlusconiano, anche se dopo il confronto in TV con Lucchetto ci avevo sperato, lontano ormai, credo, 91, 92. In cosa ci aveva sperato? E quello che mi piacerebbe parli di Occhetto a questo punto. Questo elemento suo di biografia personale, che cosa aveva sperato dopo il confronto in TV tra Occhetto e Berlusconi? In una politica nuova, in una politica diversa, dove senza inciuci... Cioè, che venisse da Berlusconi, fatti. Sì, adesso ho capito, sì. Quei famosi cartelloni che c'erano, che apparivano all'inizio, fatto, io mi ricordo benissimo... È un deluso di Berlusconi, quindi... Come? È un deluso di Berlusconi, diciamo. Sì, moltissimo, infatti volevo sapere da tutti i fan di Berlusconi qual è il pensiero politico di Berlusconi, perché io in oltre 20 anni poi non l'ho capito, perché... Anticomunismo, ok, però poi con le famose decreto salva l'Italia, mia madre volevano togliere 11.000 euro di una polizza vita fatta da mio papà. Sì, ho capito. No, Fausto, lei ha toccato un punto, perché sicuramente, come hanno previsto in molti, questa sentenza sta riunendo attorno a Berlusconi tutti i suoi, una parte dei suoi elettori sicuramente, poi dovremo vedere le elezioni come andrebbero, i parlamentari, il suo entourage, tutto quello che si stava invece allentando, perché comunque con l'usura del tempo anche, ma anche con le ammissioni dello stesso Galan, non gli abbiamo chiesto, oggi l'abbiamo avuto ospite alle 6.10, che poco tempo fa parlava di fallimento della rivoluzione liberale, eccetera. Adesso con questa situazione è chiaro che si cementifica di nuovo tutto attorno a Berlusconi, dimenticandoci che i suoi insuccessi sono, secondo me, soprattutto in politica, per quello che non siamo riusciti a fare in questi anni, il governo che lui ha presieduto. Pensiamo solo alla riforma della giustizia, di cui Berlusconi parlava nel 94, dopo aver governato per quasi 10 anni, non è stata ancora fatta, e di questo ha responsabilità lui, anche lui, per i governi che ha presieduto in questi anni. Adesso però cosa facciamo? Abbiamo il momento della bella storia, perché vi abbiamo detto che ogni sera vi lasciamo con una bella storia, quindi sigla. Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Gabardini, lei è un lettore, legge molti libri, pochi, quanti? Sì, un po' leggo. Sta sempre, diciamo, su Twitter, non c'è tempo per leggere. Li compro e non li leggo. E li metti lì? Un pochino sì, purtroppo. Come quelli di destra, io, che li tengono solo lì per fare spazio sulla libreria. Esattamente. Questa storia parla di libri, perché fra l'altro oggi il governo ha approvato un decreto sulla cultura, sui beni culturali, insomma dice che bisogna investire sulla cultura, però le librerie chiudono e ci sono grosse difficoltà. Noi invece abbiamo rintracciato una storia a Roma di una libreria aperta da mamme, quindi donne, che poi ha, come dire, germogliato, e ne sono nate tante altre in controtendenza. Salutiamo Antonella De Simone, buonasera. Ciao, buonasera. Titolare della libreria 100 storie di Roma a Centocelle. Esatto. Da cui poi si è originato un circuito più ampio di librerie. Quante sono le librerie oggi che fanno parte del circuito? Allora, attualmente sono 30 e ne abbiamo altre 3 in apertura fra settembre e ottobre. Circuito che si chiama... Cleio. Perché Cleio? Perché è un circuito di librerie indipendenti organizzate. E quindi è una classica sigla. Esatto, sì. Come si parte dalla vostra libreria fino ad arrivare a queste altre 30 e poi in futuro 33 librerie in tutta Italia? Dunque, si parte con una piccola libreria di 70 metri quadri, una voglia di cambiare la propria vita per cercare di adeguare i ritmi della vita privata ai ritmi di lavoro, e quindi abbiamo creato ormai 6 anni fa questa libreria di periferia esclusivamente per bambini, quindi specializzata per bambini con tantissimi servizi, e poi da questo tante mamme, tante donne ci chiamavano e ci chiedevano come si fa, come si può creare una cosa del genere, e abbiamo fatto partire un corso ormai 3 anni e mezzo fa, tantissime donne che partecipano da ogni parte d'Italia. Il corso si svolge ogni mese nella nostra libreria, abbiamo avuto oltre 600 partecipanti, e da questi partecipanti poi alcune hanno deciso di andare avanti e di aprire una loro libreria per bambini nelle varie zone d'Italia. Se ben ricordo, perché ci eravamo già sentiti un'altra volta, sì. 600 partecipanti, quindi circa un 10% forse poi ha trovato la forza, il modo, l'occasione per poi andare sul terreno concreto e aprire a sua volta una libreria. Esatto, perché qual è anche il nostro obiettivo. positivo è anche far rendere conto che non è proprio una vita poetica, è una vita anche molto dura. Appunto, la domanda è questa: qual è il vostro segreto? Cioè, siamo in una fase in cui addirittura i centri commerciali, insomma i grandi store dove si vendono i libri, fanno fatica e c'è la crisi perché non si legge, perché c'è internet, ci sono gli ebook, eccetera. E invece voi quale chiave avete trovato di successo per creare queste attività economiche, commerciali, poi che vi danno da vivere? Dunque, il primo elemento è un mix di servizi insieme ai libri, quindi non solo libri, ma anche servizi, laboratori per bambini, feste di compleanno, laboratori nella scuola, piccoli corsi di formazione per le insegnanti e per i genitori. Poi anche una specializzazione, quindi non si vende tutto, ma si vende libri per bambini, e di questi libri per bambini anche c'è un'attenzione alla qualità del libro. Abbiamo una bellissima editoria italiana, magari un po' trascurata di letteratura per l'infanzia, è un mondo meraviglioso e va coltivato, insomma vanno nutrite questi piccoli editori e fatti conoscere al pubblico. Questo ci ha permesso di avere una specializzazione e un riconoscimento da parte dei nostri clienti, quindi una fidelizzazione molto forte. Complimenti, che dire, insomma, brave, perché siete mamme, siete donne, si dice che insomma le donne sono meno occupate degli uomini sul mercato del lavoro, non che sono meno occupate, che hanno meno cose, che sono meno occupate perché le assumono di meno, però. Esatto, forse è proprio questo il punto, e quindi voi ci avete dato una bella lezione, ci fa piacere, complimenti. Grazie. Anche per queste nuove aperture, continuate così, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Beh, dai, questa era bella. Bellissima. Per chiudere stasera, manca ancora un minuto. Abbiamo degli ascoltatori. Io direi che però li sentiremo sicuramente lunedì prossimo. Mario da Reggio Calabria, Salvatore da Venezia, perché non c'è tempo per. Ma stanno tutto il weekend al telefono, però. È piacevole. Sì, mi dispiace, ma è così. Ma perché prendiamo dei soldi dalle compagnie telefoniche, ovviamente noi. Giusto? È gratuito il numero verde. Allora quindi niente. Non c'è E forse con questa ultima stupidata cosa. Ti sei giocato lo stage. E promosso, quindi Gabardini promossa, a questo punto lo possiamo dire. No, ma è ufficiale. Ed è scattato l'applauso. È scattato anche l'applauso spontaneo dalla regia. Quindi ti sei conquistato già tutti qua a regia. Mi emoziona tantissimo così. Fantastico. Tantissimo. Allora ti risentiremo a questo punto però, lunedì alle 18:05 sei qua. Assolutamente sì. Anzi. Sempre che non ti portino a Varese a fare il marito di Deborah Caprioli. Esatto. Ma sicuramente io rimarrò qua perché il compito dello stagista è che adesso pulisco tutte le scrivanie durante tutto il weekend. Io mi occupo di, diciamo, pulire la zona. Grazie, buona serata a tutti. Giorgio De Luca, Riccardo Bucciaro, Pietro Lacorta, Alessio Maurizi, Carlo Gabardini, a lunedì prossimo. Grazie mille e saluti anche a chi ci ascolta in podcast. Sì!